Di Lucy Maud Montgomery, Il Castello Blu, traduzione di Elisabetta Parri, Joe March Edizioni. 1. Se in una certa mattina di maggio non fosse piovuto, l'intera vita di Valency Stirling sarebbe stata completamente diversa. Si sarebbe recata con il resto del clan al picnic organizzato dallo zio Wellington e il dottor Trent sarebbe andato a Montreal. Di fatto però piove e sentirete cosa le accadde per questo motivo. Valency si svegliò presto, in quell'immota e inutile ora che precede l'alba. Non aveva dormito molto bene, talvolta è impossibile dormire bene se l'indomani si compiono 29 anni e non si è sposate in una comunità, in un contesto dove le donne nubili sono semplicemente coloro che non sono riuscite nell'intento di trovarsi un marito. Dirwood e gli Stirling avevano da tempo relegato Valency a un consolidato nubilato privo di speranza. Ma Valency, in cuor suo, non aveva mai del tutto abbandonato una certa pietosa, pudica ed esigua fiducia che l'amore potesse ancora incrociare la sua strada. Mai fino a quell'umida e orribile mattinata in cui si destò con la consapevolezza di avere 29 anni e che non ci fosse nessun uomo a corteggiarla. Sì, ecco cosa la feriva. A Valency non dispiaceva molto il fatto di essere una signorina. Dopotutto, pensava lei, essere nubili non poteva essere tanto terribile quanto essere sposate a uno zio Wellington, oppure a uno zio Benjamin, o addirittura a uno zio Herbert. Quello che la feriva era il non avere mai avuto alcuna possibilità di essere qualcosa di diverso da una vecchia zitella. Nessun uomo l'aveva mai desiderata. Le salirono le lacrime agli occhi e rimase lì, distesa, in completa solitudine, nella flebile e crescente oscurità. Non osava abbandonarsi al pianto dirotto che tanto avrebbe desiderato per due ragioni. Temeva che piangere avrebbe potuto procurarle un altro attacco di quel dolore attorno al cuore. Dopo essersi coricata, ne aveva avuto un accenno assai peggiore di quanto le fosse mai capitato. E temeva che la madre avrebbe notato i suoi occhi rossi a colazione e l'avrebbe assillata sulla causa di tale evento con minuziose, persistenti e fastidiose domande. Supponiamo, pensò Valency con uno spaventoso sorriso, che le dicessi la verità pura e semplice: sto piangendo perché non riesco a trovare marito. Come inorridirebbe la mamma, sebbene provi vergogna ogni giorno della sua vita per la figlia zitella. Ma naturalmente sarebbe stato necessario salvare le apparenze. Non è Valency, riusciva a figurarsi la cerimoniosa e dittatoriale voce che affermava: non è da signorine pensare agli uomini. E il pensiero dell'espressione materna fece ridere Valency, giacché possedeva un senso dell'umorismo del quale nessun componente del clan poteva sospettare. A tal proposito, c'erano molte cose riguardo a Valency che nessuno immaginava. Ma quella fu una risata assai superficiale e lei se ne restò lì sdraiata, un'esile figura rannicchiata e inutile, intenta ad ascoltare la pioggia che si riversava al di fuori delle mura e ad osservare con nauseato disgusto la fredda e spietata luce che strisciava nella sua brutta e sordida camera. Conosceva a mente lo squallore di quella stanza, lo conosceva e lo odiava, il pavimento pitturato di giallo, con un orribile tappeto a uncinetto in prossimità del letto e un grottesco cane a uncinetto sopra al tappeto, che le sorrideva a ogni risveglio, la sbiadita carta rosso scuro, il soffitto scolorito da vecchie infiltrazioni e attraversato da alcune crepe, lo stretto e ammaccato lavabo. Il baldacchino di carta marrone con rose color porpora, il vecchio specchio macchiato e incrinato appoggiato sull'inadeguata toeletta, il vasetto di vecchio pot-pourri realizzato dalla madre nella sua mitica luna di miele, la scatola con il coperchio a forma di conchiglia con un angolo rovinato che la cugina Stickles aveva creato nella sua altrettanto mitica fanciullezza. Il portaspilli in perline con metà della frangetta di perline ormai rovinata, la poltroncina rigida e gialla, il vecchio e sbiadito motto estinto ma non dimenticato, lavorato con filati colorati attorno al vetusto e truce volto della bisnonna Stirling. Le datate fotografie di antichi parenti ormai da lungo tempo banditi dalle stanze del piano sottostante. C'erano soltanto due quadri che non raffiguravano dei parenti. Il primo, una vecchia cromolitografia con un cucciolo seduto su una soglia di casa bagnata dalla pioggia. Quel quadro suscitava sempre tristezza in Valancy, quel derelitto cagnolino rannicchiato sul gradino sotto la pioggia battente. Perché? Perché nessuno apriva la porta e lo lasciava entrare? L'altro quadro, una scolorita stampa della regina Louise che scendeva una scalinata. Le era stato generosamente donato dalla zia Wellington in occasione del suo decimo compleanno. Per 19 anni lo aveva guardato e l'aveva odiato con la bella, compiaciuta e soddisfatta regina Louise. Ma non aveva mai osato distruggerlo o spostarlo. La mamma e la cugina Stickles sarebbero inorridite o, come Valancy usava irriverentemente esprimere nei propri pensieri, avrebbero avuto un colpo. Ogni stanza della dimora era brutta, naturalmente, ma al piano inferiore le apparenze venivano in qualche modo salvate. Non c'erano soldi da destinare alle stanze che nessuno vedeva. Tuttavia, Valancy sentiva che, se le fosse stato permesso, avrebbe potuto fare qualche cosa per la propria camera, persino senza spesa alcuna. Ma la madre aveva disapprovato ogni timido suggerimento e Valancy non aveva persistito. Valancy non persisteva mai. Ciò la spaventava. La madre non poteva tollerare alcuna opposizione. In caso di offesa, Mrs. Sterling si accigliava per diversi giorni assumendo il contegno di una duchessa insultata. L'unica cosa che a Valancy piaceva della propria camera era che poteva restarvi da sola durante la notte e che poteva piangere se lo desiderava. Ma, dopo tutto, che importanza poteva avere se una stanza utilizzata soltanto per dormire e per vestirsi era brutta? A Valancy non era mai permesso di trattenersi da sola nella propria camera per qualsiasi altro motivo. Le persone che volevano restare da sole nella propria stanza, pensavano Mrs. Frederick e la cugina Stickles, potevano essere spinte unicamente da qualche scopo sinistro. Tuttavia, la sua camera nel Castello Blu era tutto ciò che una camera doveva essere. Valancy, così intimidita e sottomessa, e ignorata e snobbata nella vita reale, si concedeva un'esistenza piuttosto splendida nei suoi sogni quotidiani. Nessun appartenente al clan degli Sterling o alle sue ramificazioni nutriva alcun sospetto a riguardo, tantomeno sua madre o la cugina Stickles. Nessuna delle due venne mai a sapere che Valancy aveva due case: la brutta abitazione di mattoni rossi a forma di scatola in Elm Street e il Castello Blu in Spagna. Sin da quando era capace di ricordare, Valancy aveva sempre vissuto spiritualmente nel Castello Blu. Era una creatura minuscola quando si trovò sedotta dal suo fascino. Riusciva sempre a vederlo quando chiudeva gli occhi con le sue torrette e gli stendardi sulla vetta della montagna invasa dai pini, avviluppato nella sua tenue e azzurra bellezza contro il tramonto del cielo di una serena e sconosciuta terra. Nel castello si trovava tutto ciò che c'era di meraviglioso e di bello, gioielli che le regine stesse avrebbero potuto indossare, abiti di chiaro di luna e di fuoco, carrozze di rose e d'oro, lunghe rampe di bassi gradini in marmo con grandi vasi bianchi e con esili fanciulle vestite di nebbia che le percorrevano avanti e indietro, cortili con pilastri in marmo bagnati da scintillanti fontane e con usignuoli che cantavano tra i mirti. Saloni di specchi che riflettevano soltanto bellissimi cavalieri e adorabili donne. Lei, la più bella di tutte, per il cui sguardo gli uomini avrebbero dato la vita. Ciò che l'aiutava a superare la noia dei suoi giorni era la speranza di potersi abbandonare a un sogno folle durante la notte. La maggior parte degli Sterling, se non tutti, sarebbe morta per l'orrore se avesse saputo la metà delle cose che Valancy faceva nel suo castello blu. Tanto per iniziare aveva un bel po' di innamorati laggiù. Soltanto uno alla volta, uno che la corteggiava con tutto quel romantico ardore tipico dell'epoca della cavalleria e che la conquistava dopo lunga devozione e numerosi atti temerari, per poi sposarla in pompa magna e, come da etichetta, nella grande cappella piena di stendardi del Castello Blu. A 12 anni, questo innamorato era un bel giovanotto con riccioli d'oro e occhi di un azzurro celestiale. A 15 era alto e scuro e pallido, ma ancora decisamente bello. A 20 era ascetico, sognatore, spirituale. A 25 aveva una mascella ben disegnata, un'espressione lievemente triste e un volto dai lineamenti forti e rudi, piuttosto che belli. Valancy non aveva mai più di 25 anni nel suo castello blu, ma di recente, molto di recente, il suo eroe aveva avuto capelli rossicci e fulvi, un sorriso storto e un passato misterioso. Non dico che Valancy sopprimesse deliberatamente questi innamorati mentre li superava di età, semplicemente uno svaniva con il sopraggiungere dell'altro. In questo senso le cose sono assai propizie nei castelli blu. Ma in questa mattina del giorno che avrebbe segnato il suo destino, Valancy non riusciva a trovare la chiave del suo castello. La realtà la opprimeva pesantemente, latrandole dietro le calcagna come un fastidioso cagnolino. Aveva 29 anni ed era sola, indesiderata, sgradita. L'unica ragazza modesta in un gruppo di persone belle. Una donna senza passato e senza futuro. Per quanto riuscisse a guardarsi indietro, la vita le appariva tediosa e insulsa, priva di una singola macchia cremisi o porpora. Per quanto riuscisse a guardare avanti, non sembravano esserci prospettive di cambiamento fino al giorno in cui sarebbe diventata una solitaria e piccola foglia avvizzita, attaccata a un ramo invernale. Il momento in cui una donna realizza di non avere niente per cui vivere, né amore, né dovere, né scopo, né speranza. Tiene in serbo per lei l'amarezza della morte. E devo semplicemente continuare a vivere perché non posso evitarlo. Potrei dover vivere 80 anni, pensò Valancy con un certo terrore. Siamo tutti così orribilmente longevi, il solo pensiero mi fa star male. Oh, era felice che stesse piovendo, o piuttosto era spaventosamente soddisfatta che stesse piovendo. Non ci sarebbe stato alcun picnic quel giorno, quel picnic annuale con il quale la zia e lo zio Wellington, si pensava a loro sempre in quella successione, celebravano immancabilmente la loro unione avvenuta durante un picnic di 30 anni prima. Era divenuto di recente un vero incubo per Valancy. Per una maliziosa coincidenza ricorreva allo stesso giorno del suo compleanno. E da quando aveva superato i 25 anni, nessuno le permetteva di dimenticarsene. Per quanto detestasse andare al picnic, non le sarebbe mai passato per la mente di ribellarsi, non sembrava esservi niente di rivoluzionario nella sua natura. E sapeva esattamente quello che ciascuno di loro le avrebbe detto in tale occasione. Lo zio Wellington, che a lei non piaceva e che disprezzava nonostante avesse soddisfatto l'aspirazione estrema degli Stirling a sposarsi per denaro, le avrebbe bofonchiato in un sussurro suino: Ancora non pensi a sposarti, mia cara? Per poi proseguire in quello scroscio di risate con il quale invariabilmente concludeva le sue insignificanti osservazioni. La zia Wellington, di fronte alla quale Valancy provava un abietto timore, le avrebbe raccontato del nuovo abito di chiffon di Olive e dell'ultima devota lettera di Cecil. Valancy avrebbe dovuto mostrarsi compiaciuta e interessata all'abito e alla lettera come se fossero appartenute a lei stessa. Altrimenti la zia Wellington si sarebbe offesa. E Valancy aveva deciso molto tempo addietro che avrebbe preferito offendere Dio piuttosto che la zia Wellington, giacché Dio avrebbe potuto perdonarla, mentre la zia Wellington non lo avrebbe mai fatto. La zia Alberta, enormemente grassa, con l'amabile abitudine di riferirsi a suo marito come a lui, quasi egli fosse l'unico uomo sulla terra e che non riusciva mai a dimenticare di essere stata una grande bellezza in gioventù, avrebbe espresso a Valancy il proprio dispiacere per la sua pelle giallastra. Non so perché tutte le ragazze di oggi siano così abbronzate. Quando io ero giovane, la mia pelle era tutta rosa e crema. Ero considerata la ragazza più graziosa del Canada, mia cara. Forse lo zio Herbert non avrebbe detto niente, oppure avrebbe rimarcato in modo scherzoso: Come stai diventando grassa, Doss? E allora tutti avrebbero riso all'idea eccessivamente divertente della povera, scarna e piccola Doss che diventava grassa. il bello e solenne zio James, che a Valancy non piaceva, ma che lei rispettava perché oracolo del clan in quanto molto intelligente, non vi erano molte menti degne di nota tra gli Sterling, avrebbe probabilmente rimarcato con quel suo sarcasmo da gufo che lo aveva reso famoso. Suppongo tu sia impegnata con il tuo corredo da sposa in questi giorni. E lo zio Benjamin, ridacchiando affannosamente, avrebbe presentato uno dei suoi abominevoli enigmi, ai quali avrebbe risposto lui stesso: qual è la differenza tra Dos e un topo? Il topo desidera nuocere al cacio e Dos desidera affascinare il macio. Valancy gli aveva sentito fare quell'indovinello una cinquantina di volte, e tutte le volte avrebbe desiderato tirargli contro qualcosa. Ma non l'aveva mai fatto. Tanto per iniziare, gli Sterling semplicemente non gettavano addosso le cose. In secondo luogo, lo zio Benjamin era un ricco e vecchio vedovo senza figli e Valancy era stata allevata nel timore e nell'ammonizione del di lui denaro. Se lei lo avesse offeso, egli l'avrebbe esclusa dal suo testamento, sempre che ne facesse parte, eh? Valancy non voleva essere esclusa dal testamento dello zio Benjamin, era stata povera per tutta la vita. E Ben ne conosceva l'irritante amarezza, così sopportava i suoi enigmi e addirittura ostentava dei penosi sorrisetti. La zia Isabel, brusca e sgradevole come un vento dell'est, l'avrebbe criticata in qualche maniera. Valancy non avrebbe potuto figurarsi in che modo, giacché la zia Isabel non ripeteva mai la stessa critica. Ogni volta trovava qualcosa di nuovo con cui pugnalarti. La zia Isabel si inorgogliva per la propria abitudine a dire tutto ciò che pensava, ma non le piaceva altrettanto quando erano gli altri a dire ciò che essi pensavano di lei. Valancy, comunque, non aveva mai detto che cosa pensava. La cugina Georgiana, il cui nome le derivava dalla trisavola che lo aveva ereditato da Giorgio IV, avrebbe enumerato con sofferenza i nomi di tutti i parenti e degli amici deceduti dall'ultimo picnic. E si sarebbe chiesta chi di noi sarà il prossimo ad andarsene? La tronfia zia Mildred avrebbe parlato senza sosta a Valancy di suo marito e dei suoi odiosi bambini prodigio, perché Valancy sarebbe stata l'unica in grado di sopportarlo. Per la stessa ragione, l'alta e sottile cugina Gladys, in realtà una cugina di primo grado alla quale il grado era stato tolto, in accordo con il meticoloso criterio degli Sterling di catalogare le parentele, avrebbe ammesso di avere un'indole sensibile e avrebbe descritto con minuzia di particolari le torture delle sue neuriti. E Olive, ah, Olive, la ragazza prodigio dell'intero clan Sterling, che aveva tutto ciò che Valancy non possedeva, bellezza, popolarità, amore, avrebbe mostrato la propria avvenenza e alluso alla propria celebrità e sfoggiato il diamante dell'amore di fronte agli impressionati e invidiosi occhi di Valancy. Oggi non ci sarebbe stato niente di tutto questo, evviva! E non ci sarebbero stati da impacchettare cucchiaini da tè. Questa pratica era sempre riservata, da sempre riservata a Valancy e alla cugina Stickles. E una volta, 6 anni prima, un pezzo del servizio in argento di cucchiaini da tè del matrimonio della zia Wellington era andato perduto. Da allora Valancy aveva sentito parlare di quel cucchiaino d'argento un'infinità di volte. Il suo fantasma era apparso come quello di Banquo della celebre tragedia shakespeariana in Macbeth a ogni successiva festa di famiglia. Oh sì. Valancy sapeva esattamente come sarebbe stato il picnic e benediva la pioggia che l'aveva salvata da tutto ciò. Non ci sarebbe stato alcun picnic quest'anno. Se la zia Wellington non poteva festeggiarlo proprio nel sacro giorno, allora non lo avrebbe celebrato affatto. Oh, Valancy ringraziava Dio per questo. Dato che non ci sarebbe stato alcun picnic, Valancy decise che se la pioggia avesse persistito anche nel pomeriggio, sarebbe andata alla biblioteca e avrebbe preso un altro libro di John Foster. A Valancy non era mai permesso leggere romanzi, ma i libri di John Foster non erano romanzi, erano scritti sulla natura. Così la bibliotecaria aveva detto a Mrs. Frederick Sterling, tutti inerenti a boschi e uccelli e vermi e cose del genere, sapete? Così a Valancy era consentito di leggerli, sotto protesta naturalmente, perché era fin troppo palese quanto le piacessero. Era ammissibile, persino comprensibile, leggere per migliorare il proprio intelletto e la propria religione, ma un libro piacevole era pericoloso. Valency non sapeva se giovasse alla sua mente oppure no, ma sentiva vagamente che la sua vita sarebbe stata diversa se si fosse imbattuta nei libri di John Foster anni prima. Le pareva le lasciassero intravedere stralci di un mondo nel quale un tempo sarebbe potuta entrare, ma che adesso le era precluso per sempre. Era soltanto da quell'ultimo anno che i libri di Foster erano disponibili nella biblioteca di Deerwood, sebbene la bibliotecaria avesse detto a Valency che lo scrittore era famoso ormai da diversi anni. Dove vive? Aveva chiesto Valency. Nessuno lo sa. Dai suoi libri si deduce sia canadese, ma non si riescono ad avere ulteriori informazioni. I suoi editori non fanno una parola. Con molta probabilità John Foster è un nome d'arte. I suoi libri sono così popolari che non restano mai sullo scaffale, anche se non riesco a capire cosa ci trovi la gente di tanto interessante. Io penso siano meravigliosi, aveva detto Valency timidamente. Oh, bene, Miss Clarkson aveva sorriso con condiscendenza, relegando l'opinione di Valency nel dimenticatoio. Personalmente non posso dire di nutrire grande interesse per i vermi, ma di sicuro Foster sembra conoscere tutto quello che c'è da sapere a riguardo. Valency non sapeva se le interessassero i vermi. Non era la sconcertante conoscenza di John Foster sulle creature selvagge e sulla vita degli insetti a incantarla. Sapeva dire a malapena che cosa fosse. L'allettante richiamo di un mistero mai rivelato, la traccia di un grande segreto poco distante, un eco lieve e sfuggente di cose incantevoli e dimenticate. La magia di John Foster era indefinibile. Sì, si sarebbe procurata un nuovo libro di John Foster. Era trascorso un mese da quando aveva preso il raccolto del cardo, così la mamma sicuramente non avrebbe avuto da obiettare. Valency lo aveva letto 4 volte, ne aveva imparato a mente alcuni brani. Inoltre, si era quasi decisa ad andare a trovare il dottor Trent, per quello strano dolore attorno al cuore. Di recente si era presentato piuttosto spesso e le palpitazioni stavano diventando assai noiose, per non parlare di un occasionale senso di vertigine, di quel bizzarro fiato corto. Poteva tuttavia recarsi da lui senza averlo detto a qualcuno? Era un pensiero davvero audace. Nessuno Sterling consultava un medico senza che si fosse tenuto un consiglio di famiglia e senza l'approvazione dello zio James. Inoltre, andavano tutti dal dottor Ambrose Marsh di Port Lawrence, che aveva sposato la cugina di secondo grado Adelaide Sterling. Ma a Valency il dottor Ambrose Marsh non piaceva. Inoltre, non poteva arrivare a Port Lawrence, che distava 15 miglia, senza che ve la conducessero. Non voleva che qualcuno sapesse del suo cuore. Si sarebbe fatto un gran chiasso a riguardo e ogni membro della famiglia sarebbe arrivato e ne avrebbe parlato e avrebbe elargito consigli e l'avrebbe messa in guardia e l'avrebbe avvisata e le avrebbe raccontato cose orribili di prozie e cugini destituiti per 40 volte che si erano sentiti proprio a quel modo ed erano morti senza alcun preavviso, mia cara. La zia Isabel avrebbe ricordato di aver sempre detto che Doss aveva l'aspetto di una ragazza che avrebbe avuto problemi al cuore, sempre così tormentata e ossuta. E lo zio Wellington l'avrebbe preso come un insulto personale, giacché nessuno Sterling aveva mai avuto malattie cardiache prima di allora. E Georgiana avrebbe presagito, con digressioni perfettamente udibili, povera, piccola Doss, non trascorrerà molto tempo in questo mondo, temo. E la cugina Gladys avrebbe detto: Beh, il mio cuore è stato tale quale per molti anni, in un tono che implicava che nessun altro avesse niente a che fare con un cuore. E Olive, ah, oh, Olive, sarebbe apparsa semplicemente bella e superiore e disgustosamente sana, come per dire: Perché tanto chiasso per una pallida eccedenza come Doss quando avete me? Valency si sentiva di non poterlo dire a nessuno, a meno che non vi fosse costretta. Era abbastanza sicura che il suo cuore non avesse niente di serio e che fosse auspicabile evitare il polverone che sarebbe scaturito da una simile notizia. Si sarebbe limitata a sgattaiolare fuori silenziosamente e avrebbe visto il dottor Trent quel giorno stesso. Quanto al suo compenso, aveva i $200 che il padre aveva depositato in banca appositamente per lei quando era nata, e in segreto avrebbe prelevato la somma sufficiente per pagare il dottor Trent. Non le veniva mai permesso neppure di utilizzarne gli interessi. Il dottor Trent era un vecchio tipo burbero, schietto e distratto, ma era un'indiscussa autorità quanto a malattie cardiache, anche se era un semplice medico generico nella sperduta Deerwood. Il dottor Trent aveva più di 70 anni e circolava voce che avesse presto intenzione di ritirarsi. Nessuno degli Sterling era più andato da lui, da quando 10 anni prima aveva detto alla cugina Gladys che la sua neurite era assolutamente immaginaria e che lei vi traeva anzi un certo piacere. Non si poteva essere pazienti di un medico che insultava a quel modo la tua cugina di secondo grado, per non menzionare il fatto che era un presbiteriano, mentre tutti gli Sterling frequentavano la chiesa anglicana. Ma Valency, tra il demone dell'infedeltà al clan e quella marea di chiasso, rumore e consigli, beh, decise che avrebbe tentato la fortuna con il demone.